I mano la lavare con sapone. A girare intorno sino puso. E poi sighi, sighi. E se non esce una sciacara ancora, prima una mano, poi l'auscia, poi tutti e due, una anta l'auscia e giri. 12 voti giri, 12 come l'apostole. Sciacquele ora, infunnele intorno all'acqua. Nescele e infunnele di nuovo. E quando è ora, inesci, sbatti e asciughi con una pezza. Così si leva un iro. Ma se un iro non esce, allora meglio chi mano l'orte. Immaginate voi una scatoletta gialla che corre in autostrada verso Roma, con 5 figli di madre e padre che come ci stanno dentro manco Dio lo sa. L'immaginate un giorno di settembre col cielo limpido, 26 settembre del 70. Immaginate ora di perderli tutti e 5 questi amici così di colpo, come un lampo in toscuro, che un minuto prima c'è e poi scompare. Ed io dovrei restare calmo? Dimenticare, scancellare insomma sto dolore. Io ci provo ogni mattina a rimandarlo giù a colpi di mazzotta, ma quello sempre sale. Non li vedete? Non li vedete? Immaginate i vostri figli allora, accanto a voi adesso, a 18, a 20 anni, con gli occhi scuri o chiari, a faccia lunga o tonda. Immaginatele che scherzano. Ma, oh ma! Sempre basta che broccole mi fai. Mamma, manco 5 minuti e poi torno. E invece si fa scuro. Sentite come ridono, seduti al muretto con l'amici. U primo denti, a scuola elementare, a prima comunione, a prima zita. I primi sciariatini con suo pace. Io a sta casa non ci faccio più, papà, capisci? Mi ne vaio, mi ne vaio. E sentite i buci. A portare a chi sbatti. I vostri figli, insomma, vedete? Bene, mettetele ora in una scatoletta gialla che corre in autostrada verso Roma. Chiamatele chi sono nomi. Fabio, Giuseppe, Antonio, come si chiama Antonio? Antonio, fermati, torna a rete. Marco, non c'è andare a Roma, scuda a tua mamma. Chiamateli invece ora Luigi, Gianni, Annalise, Franco, Angelo. 26 settembre del 70. Il cielo limpido. Manco 3 mesi erano passati da quel 5 luglio, che la piazza era piena come una boccia di melanzana fatta giardiniera. Perché tutta sta gente? Chi è che parla? Il sindaco parla. Chi? Il sindaco Battaglia. E che dice? Dice che hanno fatto un accordo sottobanco. Mi sa si è Pucci con Mancini. Sottobanco? Che vuole dire sottobanco? Vuol dire che questi gran ministri, questi segretari, questi gran cornuti si sono messi d'accordo a tavolino. A tavolino. E allora è sopra banco. Sopra banco, sottobanco. Dice che ci tolgono il capoluogo, lo danno a Catanzaro. Cosenza invece prende l'università. E Reggio? Reggio niente. Fino a ieri era capoluogo e ora non è niente. Sì, va bene, ma in cambio che ci danno? L'industrializzazione ci danno, la chimica, il tessile. Certo, con tutti questi operai specializzati che ci abbiamo, che non sappiamo neppure dove metterli. Non siete mai contenti. Vi danno 9 posti di lavoro e voi vi lamentate. E no, caro signore. Promesse, solo promesse, come sempre. Noi vogliamo il capoluogo. che quella non ci spetta, almeno è subito. Bene l'avevano studiato la questione, questi fiori di politici. Parole congegnate, belle visioni, tutto preciso e deciso dall'alto. Dimenticati. Dimenticati e impotenti, così ci sentivamo. Correvano intanto le voci come se avessero le gambe. La gente arrivava da ogni parte, famiglie intere con i bambini, le donne in prima fila. Non c'era distinzione di politica, di altro. Stavamo tutti là chiedendoci che fare. Di calare la testa anche stavolta non ci faceva proprio animo. E che potevano farci? Passarci addosso con i piedi? Calpestare come fango secco una città intera? E anche noi anarchici, fino alle 2, alle 3 di notte di quello parlavamo alla baracca. La baracca, ancora me la ricordo la baracca. Una casa bassa col giardino al centro. La nostra sede di non partito. Il nostro sala da ballo, il nostro mangiare e dormire, il nostro tutto, insomma, la baracca. Nostro, ma anche di altri, di compagni, amici, artisti, gente di passaggio. Il capoluogo va bene, diceva Gianni, però la lotta deve essere su tutto. Il lavoro per i giovani, la casa. E le agevolazioni per gli emigranti che ritornano, no. Sì, Angelo, anche quello. Annalisa stava dietro, non parlava mai. Io la prendevo sempre in giro. Italia, Italia, Italia, Italia. Ecco Dominghini che avanza sulla faccia a sinistra. Salta l'avversario. Overhand, scivolata. Passa la palla a Boninsegna, che si avvicina al vertice dell'area di rigore. Riva, salta l'avversario. Beckenbauer, scivolata. Cross al centro. Rivera, Rivera, Rivera. Tiro. Gol! Italia-Germania 4-3. Sì, ma poi la finale l'avete persa, diceva lei. Ancora questa storia. Sarò... Lo volete sentire il nuovo disco degli Stones? Oh, Franco, e non ti mettere pure tu. E poi smettila di fumare. Una giuma e l'ausa astuta. Per me, partiti o non partiti, diceva Angelo, noi dobbiamo starci. Cosa fanno nei palazzi a noi non ci interessa. La lotta è in piazza con la gente, non nei palazzi rinchiusi coi politici. Quando è lo sciopero? Martedì, 14. Uffici, bar, negozi, tutto chiuso. E noi saremo là, insieme agli altri. Sapete com'è Reggio? Due fiumi e in mezzo una striscia di strade parallele. La ferrovia che corre lungo il mare e tante traverse che dal mare vanno verso la collina. Arrivano da ogni parte quel 14 di luglio. Scendono dall'Annunziata, al nord, sopra del porto. Studenti, pescatori, operai vengono da sud, dal ponte di San Pietro, dal ponte di Sant'Anna, dal Calopinace. Scendono dalle discese di Via Giulia, da Cattolica dei Greci. Vengono da Reggio Campi, dal Castello. Ragazzi appena adolescenti arrivano in bicicletta, in motorino, dall'Eremo, da Sasperato, da Trabocchetto. Da fuori arrivano in macchina, 1100, 850, 500, 600, Prince. Qualcuno pure in Mercedes. Pochi. E mio cugino da Cannavò arriva in mulo. Ecco mulo scinnisti. E io con quello potevo scendere. Ecco bravo, scinni. Le serrande si abbassano, le porte si chiudono e negli uffici non resta più nessuno. Guarda, pure i ferrovieri arrivano. E i treni come vanno? Non vanno. E il sindacato? Il sindacato oggi non c'è, ma noi ci siamo. Mamma, mamma, devo fare la pipì anche la cacca. Adesso te la tieni che non è il momento, muta e pipa. Chi è che parla oggi? Prima Loi e poi Battaglia. Mai avevo visto così tanta gente. Manco per festa di Madonna. La piazza Italia, la piazza dei palazzi, comune, provincia, prefettura, le persone manco le contiene. Noi ci muoviamo lungo il corso Garibaldi. La sera abbiamo preparato dei foglietti. Vogliamo che la gente sappia, che capisca. Franco ha portato la chitarra. Angelo è il treppiede. La lotta è per tutto il meridione, non ve lo scordate. Come per la lotta per le terre, ci siamo tutti dentro. Bari, Lecce, Messina. Il sud ha bisogno di risposte. Il capoluogo è solo fumo dentro gli occhi. E tu, sì, tu. Quanto guadagni? Io? Io non travaglio. Travaglio non ce n'è, mi arrangio con qualche lavoretto. Il problema è che di noi nessuno se ne fotte. No, no, no, no, no, no, no, no. Il problema è che di noi nessuno se ne fotte. Ma io l'avevo detto e io lo ripeto. La storia è sempre stessa. Promesse puntuali come la morte ad ogni votazione e poi più niente. Non siamo carne da macello. Non siamo agnelli da scannare a Pasqua. A Torino, a Milano, ci hanno tutto. Hanno la Fiat, la Piaggio, l'Olivetti. Ma noi che siamo solo buoni a pescare il pesce spada. Io il pesce spada glielo ficcherei nel culo. Dove? Alla stazione. Alla stazione dici che hanno fatto un blocco. Si sono messi di traverso sui binari. Da Reggio non parte nessun treno. E allora andiamo. Andiamo. Il Duomo, via Spromonte, via Nino Bixio. Via, via, via, via. Via che arrivano. Chi arriva? La polizia. La polizia ci ha caricato, ci sono dei feriti, qualcuno perde sangue. Fermi, eravamo sui binari, non facevamo niente. Poi uno ha suonato la tromba e ci hanno caricato come gli animali. Una vecchia mi viene incontro, perde sangue dalla testa. Che faccio, vi porto all'ospedale? No, figlio, no. Portami a casa. Io volevo comprare solo l'ova, chisto, solo chisto. Ma che sta succedendo in questo mondo? Io vado con la vecchia, Gianni e Angelo dietro la gente. Che stava succedendo in questo mondo? Cosa avevamo fatto? Alzato la testa, guardato dentro all'occhio, chisto, solo chisto. Cosa avevamo chiesto? Dato aceto e sale e di aceto, provate il sale di aceto, provate, la lingua si spacca, si aumenta, la sete fa nascere pace, nasce l'angoscia, cresce la malinconia, nascono i barricati, la vedete Reggio ora, da Reggio non si sa se non se ne esce, tutto bloccato, chi resta di sto mondo rivotato, dopo appena 2 giorni di pesce e pesce, di pesci che mettono fumo, che bruciano l'occhio, chi resta? I serrandi calati, i buci, i comizi da gente, chi resta? Resta un corpo, un terra pestato. Restano i segni in taschina, in topetto. Resta il corpo di ferroviere, che 5 minuti prima è corpo di pace che rientra a casa, che la famiglia lo aspetta. Che passa dalla via Marina perché l'aria è più fresca, che passa sotto la prefettura. Che passa, non passa, passa, non passa, resta. Corpo intera, chi sto resta? Dopo 2 giorni. Bruno Labbate. Anni 45, ferroviere. Li dovete stringere le melanzane, che se no ci resta tutta l'acqua. Poi asciugate e mettete in tall'occhio che bugli pomodoro parmigiano e zicate in to forno. Così si fa la parmigiana, eh? Eh? La vecchia nel vagone si fermò di parlare come se aspettasse una risposta. E poi, non avendola la risposta, aveva continuato. Certo, una volta si camminava a piedi, non si pigliava il treno. O al massimo si prendeva la nave per andare in America. In America? E che ci andava da fare voi in America, chiese il militare. No, io in America non ci sono mai andata. Io sono nata a Cefalù, sono cresciuta a Cefalù e a Cefalù voglio morire. Di dove siete voi? Io? Io vengo da Serione. E sono tutti seri al vostro paese. Perché? E ve ne state là, muto, senza dire una parola. Ma dove si trova Serione? Serione è vicino Palermo. Sono una trentina di case, un bar, una chiesa. Ci conosciamo tutti, ci chiamano serioti, ma ogni tanto ridiamo. Piacere, disse la vecchia, Nunziata mi chiamo. Piacere, Franco, dissi io. Nello scompartimento eravamo in 6, la vecchia Nunziata Scimone, un vecchio un po' sordo, Don Gaetano Messineo, un militare, Giovanni Cutrupia, una suora, Suor Maria, e un fioraio di Canicattì, Vincenzo Filloromo. Piacere, piacere, felice, onorato di fare la vostra conoscenza. Oh, che bellezza! Finalmente una bella compagnia per fare un bello viaggio. Piacere! E le mani si intrecciarono. poi ci fu la domanda: perché salite? E ognuno di loro diede una risposta. La vecchia Annunziata Scimone saliva, il mio cuore comincia a fare scherzi. Certe volte galoppa, altre volte si ferma. Mi agita come canna al vento. Ma mi dissero che a Genova ci mettono una batteria, due chiova ed è tutto a posto. Poi, se non è a posto, non ci fa niente. Perché uno prima o poi deve morire, no? Scusate, disse il vecchio. È l'età. Quando uno ha una certa età, l'aria dello stomaco la deve mandare. Caso no si sente male. Ma non fa puzza. Sentite puzza? No, dico, sentite puzza? No, no, non fa puzza. L'avevo detto io che non faceva puzza. Come avete detto che vi chiamate, chiese Sor Maria? Giovanni Cutrupia. E dove fate il militare? A Cuneo. Rientro per l'ultima settimana e poi torno a casa. Ai miei tempi invece il militare durava 2 anni, non finiva mai. A me invece mi hanno riformato, disse il fioraio. E così ho cominciato subito a lavorare. Ho fatto il parrucchiere per uomo, il barbiere per uomo, l'idraulico, il meccanico, l'operaio. E adesso che mestiere fate? Adesso lavoro con i fiori. Preparo ghirlande per i funerali, addobbo chiese per i matrimoni, fiori d'arancio, fiori d'amore. E vi piace? Mi piace. È il mio mestiere. Vabbè, che c'entra? Pure fare il becchino è un mestiere. Ma non deve essere divertente. Ma qualcuno lo deve fare. Che se no i morti restano a casa. E dopo un po' puzzano, disse il militare. Puzzano, puzzano. Ma come, prima dite che non puzzano e ora puzzano? No, no, non parlavamo della vostra. Parlavamo della puzza dei morti. Di che? Dei morti. Ma che c'entrano i morti? C'entrano, c'entrano, disse la vecchia. Uno prima o poi deve morire. E pare che la vita la può rubare. Quando c'era lui, non rubava nessuno. Si dormiva con le porte aperte. Si camminava tranquilli per le strade. Adesso il mondo è tutto sciacanciato. Se sali sull'autobus, i giovani manco si alzano. Perché dovrebbero alzarsi, chiesi io? Perché sogno vecchio, stanco e deluso. Pure io sono deluso, disse il fioraio. Mio padre ha tanti soldi, una casa, una villa, un'industria. Ha lasciato tutto il mio fratello. A me mi ha accompagnato alla porta, mi ha stretto la mano e mi ha detto «Buona fortuna, figlio! Tanto tu ti organizzi, ti inventi le cose!» «Avete visto?» disse il militare. «I vecchi sbagliano e i giovani dovrebbero alzarsi. Comunque i giovani hanno i capelli lunghi, comunque fumano e comunque hanno la minigonna!» «A me piace la minigonna», disse la vecchia. «Io se fossi giovane me la metterei sicuro. Ora, se uno ha cose belle, belle cose deve mostrare, non per vantarmi. Ma quando camminavo per la strada si fermavano gli orologi, la gente si girava per guardarmi. Il giorno del matrimonio avevo un vestito bianco, bianco, bianco, che sembrava una principessa. Mio marito si era rintronato a furia di guardarmi. Che quando il prete ci aveva detto «prendetela qui presente», ci aveva risposto «ma com'è qui, davanti a tutti?» La chiesa intera si era messa a ridere. «Solo sì, doveva dire», disse il vecchio. «Lo sanno tutti, solo sì». «Scusate, volete sentirlo questo uovo?» disse il militare. «È cotto nella cenere. Noi abbiamo delle galline, delle capre, 40 vacche e un toro nano. Io sto nella campagna. Loro mangiano e poi la sera ce ne torniamo a casa. E non vi seccate a stare da solo tutta la giornata?» «No, io sto bene da solo. Se ho fame mangio, se ho sete bevo. Nessuno mi dice cosa devo fare. Adesso invece sono a militare, sono solo ordini, disciplina. Attenti, Cutrupia! Attenti, Cutrupia! Attenti! E va bene, adesso avete finito, no? Che vi resta? L'ultima settimana? Poi ve ne tornate a casa, vi trovate una bella fidanzata, vi sposate e fate tanti bambini. E poi i bambini vi fanno compagnia nella campagna. Grazie, disse il militare, grazie. Ma sentitelo stu uovo. È duce come zucchero. E la vecchia Annunziata tirò fuori un pezzo di pane. Il vecchio una fiasca di vino, il fioraio una boccia di olive e Sor Maria un pezzo di formaggio. Mi dispiace, disse io. Io non ho niente. Io scendo a Palmi. E non vi preoccupate, disse la vecchia. voi fate conto di essere in famiglia. Uno che torna a casa da sua madre non ha bisogno di portare da mangiare. Si siede e mangia. Ed è figlio che mangia. Prendete, prendete, mangiate e fatevi grande. Messina! Si scende! E cancela sta radio, Gianni. Cancela! Chiave duri che c'è solo retta aperte. Cancela! Era stato Franco a rompere quel cazzo di silenzio sulla macchina, che era da ore che dava fastidio a tutti, ma nessuno diceva niente. Forse perché quella sorta di Orlando in campo a tenerla dentro l'aria proprio non ce la faceva. I can get no satisfaction and I cry, and I cry, I can get no. E basta, Franco, che diventai sudo, gli aveva detto Angelo, che si trova tra Franco da una parte e Luigi dall'altra. Gianni guidava, Annalise guardava fuori. Dov'è che siamo arrivati? Chiese Annalise. Al Lago Negro, rispose Luigi. L'amico Cosentino che sulla macchina c'era lì per sbaglio. Ne manca ancora di strada, Annalise, ne manca. Certo che le montagne del Pollino non sono come il mare. Minchia dell'acca di scienza che sì, Franco. E stai scherzando, Luigi, stai scherzando. Cassupra non parla nudo. E poi, io duri che c'è solo retta. Oh, Gianni, cancia canale, che se no mi metto subito a cantare. Sai che faccio, Franco? Astuto, eh? Stum. E silenzio. Era ritornato sulla macchina come prima. Gianni guida. Angelo guarda fuori. Guarda quelle montagne così diverse dallo stretto. Chissà che cosa cerca. Io, Angelo Casile, lo conoscevo ai tempi della prima comunione. Stava sempre in mezzo agli altri bambini, ma non parlava mai. Ma si vedeva che registrava tutto. Aveva degli occhi grandi, che sembrava dovessero morderlo sto mondo, per sentire il sapore delle cose senza stancarsi mai. Forse per via dell'anca malata. La zoppia, regalo ad una polio, avuta da piccirillo che manco un anno aveva. Proprio come a Garrincia. Io e Angelo Casile eravamo figli di ferrovieri e a Rione Ferrovieri stavamo. Quella fila di case passa tutto a dire. Le strade, le cortine, dentro la chiesa dove giocavamo. Abate, non c'era odore di bergamotto. L'aria sapeva di altro, come di pioggia trattenuta. Come se da quel cielo sgombro potesse arrivare d'improvviso un temporale. Come se questa amarezza che avevamo dentro si fosse sciolta sotto i piedi e ci avesse fatto deviare verso un'altra direzione. Una vara di Madonna che scivola su acqua saponata senza cordo o guida. Così ci sentivamo. E cosa dovevamo fare? Mettere sottoterra il primo morto e tornare a casa come se nulla fosse. Non era questo il punto. Saremmo rimasti sulle barricate, si capiva. Ma adesso era un'altra cosa. La carica della polizia non era stata un caso. Già dopo un'ora ce n'era stata un'altra in Piazza Italia sulla gente che chiedeva il rilascio dei fermati. E così le barricate le avevamo viste crescere. Ma non solo uno o due, ma cinque, sette, non solo pali o sacchi. Ma tavoli, tavolini, tavolinelli, cascitti con pomodori flaccidi che potevano servire ad infiorare i poliziotti. E la polizia? Le cariche della polizia erano diventate come il caffè la mattina, un'abitudine. E se non stavi attento, potevi rischiare di trovartici in mezzo e rimanere travolto da quel fiume di divise che non capivi neppure da dove era partito. E dopo i pomodori cominciarono le pietre. E dopo le pietre le prime bottiglie di benzina. Bottiglie incendiarie erano diventati quartieri. Il Granducato di Santa Caterina al nord e la Repubblica di Sbarre, a sud. Sbarre era un poco casa nostra. Noi ci andavamo spesso da quando avevamo conosciuto Franco Scorto. Una volta lo trovammo su un albero a cavalcioni che leggeva, sotto un mucchio di bambini ad ascoltare. Più era morto stecchito. Io cercavo di far rinvenire mia madre con dell'acqua e sale. Intanto il commissario cavalcava di gran carriera. Che vuole dire gran carriera, Franco? Che vuole dire gran carriera? Che vuole dire gran carriera? Che vuole dire gran carriera, Franco? Aveva detto Angelo accanto a noi. Oh, alla buon'ora! E con un salto era sceso giù dall'albero. Dai, dai, Franco, lascia stare a Saro e Angelo, dai, la storia è bella, cominciaste ora. Dai, continua a leggere, dai, Franco, dai, dai, Franco, dai, dai, dai, dai, Franco, dai. I bambini avevano preso a fare musica. E allora Franco aveva cominciato a farla lui, la musica. Io, vagabondo che sono io, vagabondo che non sono altro, soldi in tasca non ne ho, ma in cielo mi è rimasto Dio. Franco, finisti? Oppure devi fare pure il lato B. Oh, ragazzi, mi sono comprato una chitarra, la dovete sentire, è bellissima. Franco, 17 anni, sempre preso da qualcosa, dalla musica, dai bambini soprattutto, i bambini di Rione Marconi. Stava con loro a aggiornare ore e ore, quelle case ricostruite dopo il terremoto che ancora stavano là. Era Franco la colonna sonora, la baracca, anche in quei giorni in cui l'aria si era fatta più cupa. Come se davvero l'olio sotto i piedi fosse diventato nero. Ho pensato molto, disse Gianni. Questa è la risposta del governo. Cariche e lacrimogeni, la polizia non fa un passo indietro. La rabbia della gente è sacrosanta. Ma chi vuole utilizzarla per fare solo disordine ha altri scopi. E la bomba alla questura, alle chiese, ai carabinieri, che cosa preparavano? Io vedo certe facce in giro. E a televisione, i giornali di chi parlano? Da Juventus? E i pesci, i morti? A un nessuno. Io vedo certe facce in giro, che c'entrano con la gente, con la rivolta? Io sento come se dovesse succedere qualcosa di grosso. Come se dovessimo lavare delle lenzuola bianche con del carbone nero. Suona, Franco, suona. Pausa. È l'ora della pausa. Le barricate funzionano così, ad orario. 8, 13, 15, 20, come negli uffici. Io e Angelo oggi camminiamo per la strada. Non c'è nessuno a quest'ora. Solo carte e scirocco. C'è un caldo che non si respira. Sarò, vuoi venire a mangiare a mia casa? Oggi mia mamma prepara a pomodoro cacipudda. A pomodoro cacipudda? La cipolla quale? Chida russa? Sì, certo, chida russa, chida di Tropea. Ah, buona, perché a mia chida Ianca non mi piace. E alivuzza, e ci metti alivuzza? Sì, ci metti alivuzza, chida vidi. Ah, non ci metti chida neri? Non ci metti chida neri. E i pinoli? Che fa? Ci metti i pinoli? Sì, ci metti i pinoli. E i capperi? I capperi ci metti? Sì, ci metti i capperi. E l'acciughe? L'acciughe salata glieli metti? Oh, Sarò, vuoi venire a mangiare, sì o no? Avevamo superato il ponte del Calopinace, entrati nel viale. C'era una piccola barricata, un motocarro rovesciato. E nel cassone, tutto arrugginito, un materasso. E nel materasso, un bambino. Voi le tirate le pietre? Noi? Noi no. Mio padre le tira le pietre. Mio padre è un campione. Per quante pietre tira, dici che ci fa male pure il braccio. Le pietre si tirano dritte, di controbalzo e ad arco. Sì, ad arco, con le frecce. Ma quale frecce? Pare che siamo indiani. Ma che fai? Non vai a mangiare tu? Mangio più tardi. Com'è che ti chiami? Caio Anton Giulio. Minchia del nome impegnativo che hai. Scherzo. Mi chiamo solo Giulio. Caio Anton Giulio si chiamava mio nonno. Ma perché mio padre tira le pietre? Tuo padre tira le pietre perché ha un figlio che si chiama Caio Anton Giulio. Smettila, smettila. Tuo padre tira le pietre perché tuo padre tira le pietre. Io quando sono grande voglio fare il poliziotto. Bravo. Così le pietre te le tirano a te. Ma il poliziotto c'ha il casco. Mio padre non ce l'ha il casco. Ma poi voglio fare anche il mago, il fantasma, il chirurgo, il presentatore, il cantante. Mi pare che troppe cose vuoi fare tu. Io veramente voglio andare al mare. E vacci, no? Non posso. Mia madre dice che ho la bronchite, è per questo che sto al sole tutta la giornata. Io prima ci andavo al mare. Maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre. Sempre, sempre nell'acqua stavo. Hai voglia mia madre a chiamare? Giulio! Giulio, nesci fuori, che hai labbro culo viola, nesci. E quando io non volevo uscire, lei cominciava... Nesci fuori, su, no, su, ti disse... Vedi che vengo giù. Appena venne dopo. Sì. Mamma, sono qui. Oh, figlio, mi farai morire. Ma poi mi metteva l'asciugamano sulle spalle e mi accarezzava. Io appena mi passa la bronchite torno al mare. Anzi, pure che non mi passa ci vado stesso. Ciao, Caio Anton Giulio. Ciao. Ah, scusate, ma visto che io mi chiamo solo Giulio, vi posso chiamare a uno Caio e l'altro Antonio? Ah, vedi che vengo dopo! Oh! E ci eravamo messi a ridere. Tutti e tre. Entravano e uscivano i vagoni dal traghetto. Io ero salito sul ponte della nave. C'era un caldo che non si respirava. Tra pochi minuti saremmo stati in Italia. La terra che lasciavamo Italia non lo era mai stata. Così il traghetto ebbe un singhiozzo e poi partì. Ogni volta che lascio questa terra mi sento come un dolore, un bruciore alla bocca dell'anima, perché parto e non so se torno. È vero, disse il militare, è vero, disse il fioraio, pure a me. Ma per il cuore di Gesù, perché dite queste cose? La vedete la statua della Madonnina? Lei ci guarda, ci protegge. Bisogna avere fede. Forza, forza, venite accanto a me, facciamo un bel rosario. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Santa Rita, prega per noi. San Cosimo e Damiano, pregate per noi. Maria Addolorata, prega per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. San Francesco, prega per noi. E voi, Francesco, non pregate? No, io ho bisogno di guardare il mare, che se no mi sento male. E non vi preoccupate. Preghiamo noi per voi, tenete. E mi diede un rosario nelle mani. Grazie, disse io. Pregate voi. Il vecchio si era addormentato con le mani giunte. Dormiva. Sognava, pregava forse. Con la litania del rosario dentro l'orecchio. Partita con la forza di chi vuole andare lontano e poi piano piano era diventato onda di mare, onda che si infrange sugli scogli. Suor Maria, la chioccia e i pulcini. Quella era gente che si conosceva da poco e che pure era stata insieme. Aveva parlato, aveva dormito, aveva mangiato, aveva pregato insieme. Tu! La sirena della nave. Puzza! Non puzza! Puzza! Che? Il vecchio si era risvegliato. Era andato in bagno. Si era sciacquato la faccia e poi, quando era rientrato, era venuto ad appoggiarsi sul bordo della nave, accanto a me. Quante pesce ci sono in questo mare? Non lo so. 1 milione, 2 milioni, forse di più. Ma i pesci si sciarivano per vivo. Gira, gira e non si ferma mai. Il mare quando gira pare un occhio. Mi piace il mare. Il mare nipote che studia vicino mare, l'aria come stomaco fa puzza. Come a più giorno. E che non riesce un moscotto. Il 3 aprile del 54. Due giorni per dire a mio figlio che non mare. L'aveva detto io che non c'era precedente. Che non avevo mai nesce la pescare. Deve vivere comunque, dissi io. Allora perché prendete il treno? Dov'è che andate? Vado a Torino a trovare mia figlia. Da quando è morto suo fratello, lei non scende più. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il rosario era finito preciso, giusto in tempo per l'attracco del traghetto in villa. Benvenuti in Italia, c'era scritto. Dopo l'Immacolata, un poco prima di Natale, io volevo salire a Roma. Era un mese che non vedeva Gianni e Angelo. Loro se ne erano andati dopo che avevano avuto l'assoluzione nel processo per istigazione all'obiezione di... Insomma, erano stati processati perché erano andati al porto e ci hanno detto al militare di togliersi la divisa e di mettersi a ballare, che ballare era meglio che fare la guerra. E per quello l'avevano processato per direttissima. I giorni del processo, nell'aula, non si poteva manco stare, non si poteva dettare un cicero galliato, c'erano tutti i compagni venuti da mezza Italia. E ad ogni parola del nostro avvocato era tutto un «Bravo, forza, facci vedere tu!» Il presidente Amarlui stava con le mani nei capelli e quando aveva letto la sentenza, assolti! Oh, che era successo lì dentro? E Finemonto, grida, buci di campo, come per la promozione della regina. Ma questa sconfitta 7-0 a tavolino, la questura non l'aveva digerita e li teneva d'occhio. Anche l'avvocato ce l'aveva detto, ragazzi state attenti, andatevene da qua perché vi mettono di mezzo per qualche cosa, perché qui qualche bomba scoppia per davvero. Parentesi. Erano i giorni in cui al principe Valerio Borghese, quello della decima massa, l'amico di Mussolini, quello che poi tenta il colpo di Stato, quello lì, a Reggio non l'avevano fatto parlare. E sempre in quei giorni c'era stato un blitz della polizia a Montalto contro la 'Ndrangheta che aveva organizzato un incontro, convegno, studio, seminario con tema il colpo di Stato. Fatto strano che i nuovi 'ndranghetisti, quelli golpisti, erano scappati, mentre i vecchi 'ndranghetisti c'erano incappati. Chiusa parentesi. E come aveva detto l'avvocato, le bombe a Reggio erano scoppiate per davvero. Ma erano scoppiate pure a Milano, a Piazza Fontana e a Roma, al Vittoriale. E così, per scappare dalle bombe di Reggio, erano finiti dritti in altre bombe. Li avevano arrestati, 15 giorni di galera si erano fatti. Ma poi, per grazia di Madonna o per fortuna, una commessa li aveva riconosciuti in altri luoghi all'ora delle bombe. E così, dopo l'Immacolata, un poco prima di Natale, invece di salire io erano scesi loro. Ricevi una lettera da loro. E il cuore ti si agita. La ricevi in carcere e vorrebbe uscirti dal petto, scappar via. La porti al viso, nessun odore. Un francobollo rosso, Reggio Calabria, il timbro di partenza. Io il mio ritorno ad Amburgo lo immaginavo diverso. Da casa mia si vedono solo palazzi. Almeno qui dal carcere si vede un pezzo di mare. Un ponte delle navi, le gru in movimento. Ma fra 3 giorni esco. Gianni mi aspetta. Il matrimonio l'abbiamo fatto per procura. Una lettera in partenza e una in ritorno. E nella lettera una fotografia. C'è Gianni che ride, con accanto suo cugino vestito da sposa al posto mio. Gianni quando ride ha come un lampo dentro gli occhi. Un lampo che non scompare mai. Io a Reggio c'ero stata l'anno scorso. C'era una luce nello stretto, una luce che non avevo visto mai. Forse è questo che bisogna cercare a 18 anni, la luce, le braccia di un uomo a cui affidarsi in tutto, sino in fondo. La gente di Reggio non è diversa da quella di Amburgo, ha la stessa rabbia, ma con in più un accenno di speranza, una voglia di vivere che ti fa star bene. Annalise mi chiamo, ma Gianni mi chiama Mookie. Oh my God, guarda, brucia! Un gruppo di ragazzini sopra il muro del deposito delle ferrovie gridavano di gioia. Ma chi è? Caviti! Tirammo una bottiglia di benzina e pigliò fuoco! Guardate! Noi stavamo neanche 100 metri da casa. Richiamati dalle grida eravamo corsi subito. Le bombole del combustibile, quello che usano per le lampade. Ma che, non le vedete? Ma cosa combinaste? Il deposito accoglie i locomotori di Mezza Italia, che regge fine tratta, fine di autostrada, fine di tutto. È fatto da uno spiazzo che si trova tra la linea ferrata e il viale, con dentro degli edifici di metallo. Fuori un muro lungo 200 metri che parte da casa nostra e arriva fin sotto lo stadio. Un muro di mattoni pieni, altezza d'uomo, con una ringhiera in cima fatta apposta per aggrapparti e rimanere in equilibrio. Si alzavano le fiamme adesso e a mano che aumentavano le fiamme cresceva anche il numero dei ragazzi sul muretto a godersi lo spettacolo. Prima 50, poi 70, poi 100. Si sentivano sirene su sirene, i pompieri andavano e venivano e a mano arrivavano le camionette della Celere, della polizia, dei carabinieri. Li avevano messi davanti all'entrata del deposito a protezione, Celere a destra e carabinieri a sinistra come in una parata. Bastardi, figli di puttana, andatevi nei vostri casi! Volavano gli insulti, insieme agli insulti volava la sputazza, insieme alla sputazza anche le pietre. Bastardi, figli di puttana! Poi d'improvviso non si era visto più niente, perché era girato lo scirocco e quel fumo denso ci arrivava dritto dentro gli occhi, ma in mezzo a quel fumo, rischiarati dalle fiamme, vedevamo quegli uomini in divisa agitarsi come animali in gabbia. Servi dei padroni! Poi un ragazzo d'improvviso era sceso dal muretto. Aveva una camicia rossa, dei capelli lunghi. Aveva fatto 1, 2, 3. Era partita la bottiglia, segnando l'aria con la sua fiamma azzurra. Aveva superato la testa dei carabinieri ed era finita. Dritta. Via, la cisterna del gasolio colpì. Via, qui scoppia tutto. I ragazzi erano scesi come cavallette dal muretto. Erano venuti a unirsi a noi ad una 50 metri dal deposito. Stavamo lì, compatti, con ferri, legni e calcinacci. Noi davanti, la cisterna pronta a scoppiare dietro, le fiamme di lato e loro in mezzo. Fuori, caricate, urlavano adesso gli ufficiali. Ma quelli non sentivano. Qualcuno piangeva, altri si lamentavano. Fuori, ma che, non sentite? Gli ordini sono ordini! Mia cara madre, di perdere la vita al sud non sono tanto buono. Era meglio se restavo all'officina dallo zio a lavorare, anche se non mi paga zio Can. Cosa ci faccio qui? Che con questo caldo la divisa mi si scioglie addosso e non respiro. A casa mia sto in canottiera. Vado al fiume a pescare. Che pesci di fiume si pescano facilmente. 10.000 lire. Per stare sotto le pietre tutto il giorno. 10.000 lire al mese. Per prendere insulti sul collo dal tenente e sputi in faccia dalla gente. Se ci penso bene, tanto torto non ce l'hanno mica. Mia cara madre, quando sto male penso a voi, ai vostri occhi, alla vostra faccia. Appena torno, mi cerco un'altra cosa, che questo mestiere non fa per me. Adesso vi saluto, che devo proprio andare. Perché ci spingono, ci insultano, ci mandano là fuori, mamma! Fuori! Caricate! Arrivano! Un fiume che straripa, un fiume che travolge, un fiume che ha paura. E allora partono le pietre fitte come un grandine ad oscurare il cielo. E poi ci nascondiamo, nelle traverse, nei cortili, dietro le macchine. Ma sì, dove volete, dietro le macchine! La cella avanza, travolge ogni cosa. Stum! Lacrimogeni, gli occhi bruciano. La Celere non guarda in faccia niente, spacca le vetrine, rompe le macchine, uno è raggiunto, colpi di manganello. Dall'altra parte i carabinieri si sono separati a gruppi di 3, 4, proviamo a ricompattarci per andargli incontro quando... 2 colpi, 7, un carabiniere con la palma, l'ho visto, è stato lui, ha un moschetto nelle mani, spara ancora. Un ragazzo attraversa la strada, non è con noi, non c'entra niente lui. Ha una borsa nelle mani, US Catone c'è scritto, è colpito, arriva a terra, piange, si lamenta, nell'aria c'è un fumo. Indietro, indietro, gridano i carabinieri, indietro, grida la polizia, si ritirano, tornano al deposito dove i pompieri hanno spento le fiamme. Dall'altra parte, un uomo sui gradini di casa, la moglie vicino, lo sostiene. La forza. Forza che non è niente. Forza che non è niente. È che mi manca il fiato. L'uomo apre gli occhi, li richiude, fa un respiro un po' più lungo, poi... Domani ci danno la divisa nuova. Forza, forza Angelo, forza, forza Angelo, forza, forza, forza che arriva l'ambulanza, forza, forza. L'uomo apre gli occhi, li richiude, fa un respiro un po' più lungo, poi più niente. Degli uomini fanno per avvicinarsi. Non lo toccate, non lo toccate, dice la donna, che lo devo lavare. Che sporco, non lo mando. Che lo devo sistemare. Che ci devo mettere il vestito blu. Quello che si è messo per la prima comunione di suo figlio. Angelo Campanella, anni 46, Trambiere. Del fresco sulla veranda di casa ci straviò del tutto. E quei feriti, sei, a colpi di moschetto sparati ad altezza d'uomo, segnarono un confine. Una striscia fatta intera con la calce. E come un mosto che fermenta la rabbia saliva. Una lava incandescente e incontrollabile. Una strage si sentiva. Allarmerie, allarmerie, gridavano. Così che dopo un'ora non c'era una pistola a giocattolo nei negozi. Quasi che non ci fosse adulto, ragazzo, bambino senza un'arma. Molti che di questa un'arma non l'avevano mai vista. A più di 1000 scesero in piazza Duomo, più di 1000. Con la polizia serragliata dentro la questura come in un forte. Cowboy e indiano. Si sentiva un misto di paura e polvere da sparo ed esplosioni. Come continuasse festa di Madonna. Come se il quadro dentro la chiesa, distante da qui 50 metri, avesse chiuso gli occhi e non volesse vedere il terremoto che tra poco sarebbe arrivato. E invece, forse il sangue freddo del questore a trattenere i suoi, forse l'arcivescovo, sceso in piazza tra la gente a togliere le armi dalle mani, avevano evitato il peggio. Ma qualcuno a terra era rimasto lo stesso. un cuore dietro una porta non aveva retto. Anche lui morto della rivolta. Anche lui padre di famiglia che torna a casa. Vincenzo Curigliano, anni 47, brigadiere. Il treno era ripartito. Accanto a noi ulivi, fichi d'India e mare. Si passava dalla luce accecante del sole al buio delle gallerie, dal caldo al freddo. Nello scompartimento la lampadina era rotta. Lo chiamano il treno del sole, disse la vecchia. Ma a me pare che siamo sempre oscuro. E poi ne misero pure negli ultimi vagoni, così arrivamo pure dopo gli altri. E basta che arrivamo, disse il vecchio. Per favore, che fate? Potete abbassare il finestrino. Che avete, suor Maria? La testa. Che avete nella testa? Lo scirocco. Lo scirocco mi confonde, mi fa pensare male. Bagnatevi la fronte, dissi io. E gli diedi un fazzoletto bianco con dell'acqua. Com'è che vi sento? Biglietti! Ma come, ancora dobbiamo ripartire? E già domandate biglietti? Biglietti, per favore. Va bene, tenete. Ma ditemi una cosa. Che siamo, con mezz'ora di ritardo? Oppure siamo con mezz'ora di ritardo? Siamo in tempo, dice il controllore, va bene? Siamo in tempo. Buongiorno, buongiorno. In tempo. In tempo per che cosa? Non l'hai un chiù tutto sto tempo. È buono, calmatevi, calmatevi, che poi vi sale la pressione. Ha ragione, disse il militare. Ha ragione, disse il fioraio. Non stanno mai a sentirti. Io, se nasco un'altra volta, voglio fare il controllore. Così faccio viaggiare a tutti gratis. Bagnatevi la fronte tutte e due. E bevete. Come pare che lo scirocco vi fa pensare male pure a voi. Bevete. Le loro facce si erano fermate, come in una fotografia in bianco e nero. Come io non fossi lì. Come le ricordasse fra 30 anni, con le loro espressioni tristi, allegre, le loro speranze, le loro delusioni, i loro rosari. Quella poteva essere una famiglia, un mondo raccolto in un vagone. Un pensiero di scirocco sopra sedili di velluto vecchio. Che fate? Niente, mi preparo, tiro giù la valigia. Tra poco sono arrivato. Beato voi. Noi arriviamo domattina. È stato davvero bello viaggiare insieme a voi, disse il fioraio. Se vi capita di passare da Palermo, disse il militare, venitemi a trovare. Adesso vediamo. Vi raccomando, il rosario, usatelo qualche volta, usatelo. Vi saluto, bello giovinotto, disse la vecchia. E se vi riesce, provate a ridere ogni tanto. Io ci provo, dissi io. Vi giuro che ci provo. Palmi! Vi saluto. E scesi dal treno. E mentre... mi scusi. Avevo urtato una signora che con pacchettini, stava tentando di salire sul treno. Che me l'ha dato la mano? Sì, certo, signora, salite, ve li porgo io. Sapete se c'è posto? Sì, in questo scompartimento qui sono sceso io adesso. Com'è che vi chiamate? Maria Grazia, perché? No, niente. Vi saluto. Vi saluto, disse il vecchio, vi saluto. È stato davvero bello viaggiare con voi, anche per me. Quando è che salite la prossima volta? Non lo so. Avete dimenticato il fazzoletto? Non vi preoccupate, tenetelo. Come avete detto che mi chiamate? Mi chiamo Franco. Franco! Ma il treno era ormai lontano, lanciato dritto, preciso, verso Gioia Tauro. I binari vuoti, un urlo di cicale a spaccare l'aria. Una bomba, avete capito? Una bomba! Mi ha fatto saltare il treno a Gioia Tauro. Una bomba! Si parla di decine e decine di morti! Così era arrivato Franco, come una furia, nella baracca. E stavolta non cantava, non leggeva, non suonava. Ma cosa ti dici sti cose? Dove l'hai sentiti? A Roof Garden, a 100 metri da qua. C'era Gaudio, quello della polizia, e Santillo, il questore. Parlavano di decine e decine di morti. Una bomba sotto operare il treno! Una bomba! Poi sono saliti sulle macchine e sono andate via. Una bomba! Così c'era arrivata la notizia. Completa pure della causa. Una bomba. Ma poi di quella bomba non se n'era parlato più. Incidente aveva riportato la polizia, incidente aveva detto la televisione. E di mezzo c'erano andati un caposquadra, un operaio, un sorvegliante, un capostazione. La notizia è già confezionata. L'attenzione è spostata da un'altra parte, come per Piazza Fontana, dove la parte dei colpevoli già scritti sulla carta, prima del fatto stesso, l'avevamo fatta noi, gli anarchici. E così noi a quella verità non avevamo creduto. Come se le bombe non fosse fatto di ogni giorno. Come se quello stesso treno non avesse subito mezz'ora di ritardo per una bomba disinnescata appena dopo Villa. 7 morti, 70 feriti. Liquidati in fretta. 4 più 4 fa 8. 8 più 8 fa 16. Ma 16 più 16 per noi faceva 31. Che avevano sbagliato i conti? Oppure avevano tolto la luce? Perché a guardarci bene, il pezzo di binario nella tratta mancava. I muri erano tutti scheggiati dalle pietre, le traversine di legno sparse un po' dovunque. Lì c'era stata messa una bomba, sì, una bomba. Bastava indagare, cercare di capire gli autori, gli esecutori, i mandanti, capire, indagare. Ecco, indagare. E quello era diventato il chiodo fisso di Gianni e Angelo. Indagare. Guarda queste foto, dice Gianni. Le vedi queste facce? Sono tutti greci infiltrati a Messina, all'università. Bisogna stare a... Fa, aspetta, Gianni, fammi vedere. Ma questo lo conosco. Era alla barricata a Santa Caterina che gridava insieme agli altri. Ecco, vedi, bisogna stare attenti. Cioè, dobbiamo aspettare qui dentro. Ma perché non ti ricordi quei due che si sono presentati l'altra volta, che dopo 5 minuti ci hanno detto «Dov'è che tenete le armi? Che passiamo subito all'azione!» Ce l'avevano scritto in fronte, sono uno sbirro. E con quell'altri? Di chi era stata l'idea di leggere Stirner, Malatesta, Bakunin? Ore e ore di lettura, a fine serata erano scoppiati, non si sono più visti. Che bella filosofia, eh? Il DDT degli infiltrati. Gli infiltrati, il principe borghese, le bombe sul binario, ma che stava succedendo? E così per tutto il mese d'agosto io Angelo non l'avevo più visto. Partiva per la Sicilia, viaggi di 2 o 3 giorni. E quando rientrava, giusto il tempo di sciacquarsi la faccia, salutare la mamma e andava a chiudersi in una stanza con Gianni a parlare per ore e ore e ore. Gianni aveva una cartellina rossa, nascosta nei giornali. Solo i primi di settembre li avevo rivisti. Avevamo organizzato una manifestazione che partiva davanti alla Chiesa Battista. Eravamo stanchi del sangue versato. Basta con la violenza. Tra i dimostranti da una parte e la polizia dall'altra. Ma a un certo punto la polizia aveva cominciato ad avvicinarsi, ma anche un gruppo di fascisti aveva cominciato ad avvicinarsi, a prenderci in giro, a provocarci. Allora Angelo si era staccato e era andato verso uno di questi. Ma non capisci? Non capite che vi sfruttano? Lo sapete chi servite? La 'Ndrangheta? I servizi segreti? I politici corrotti? Questi servite! Gli era arrivato uno schiaffo sulla faccia. Bravo, ci aveva detto, bravo. Dammene un altro. E un altro ce n'era arrivato per davvero. Se non te la vai, te bruciati a tutta chiesa e i tuoi amichetti, ok? Andiamo, Franco, andiamo. Andiamo. Franco l'aveva tirato per un braccio. Andiamo. Che se parli con i muri ti ascoltano meglio. Andiamo, Angelo. Ed eravamo ritornati verso la baracca. Angelo aveva gli occhi umidi, ma non era dolore, no. Era amarezza. Nel vedere i ragazzi come lui, come noi, e non riuscire a farsi capire. Resto qua fora, Saro, mi fumo una sigaretta. Entro dopo. Io lo guardavo dalla finestra. Il mio amico, seduto a terra, che fumava. Solo. Thank you. si era fatta più cupa, come se quell'olio avesse allagato tutta la baracca. Là, in quei giorni, erano cominciate ad arrivare segnali strani per Gianni e Angelo. Segnali fatti di pronto, pronto, pronto, silenzi, miti consigli, voci di pericolo riportate da uno zio, da un cugino, minacce poi esplicite. Tanto che Gianni, preoccupato come era, si era preso una pistola. Il fatto è che Gianni e Angelo, il quadro della strage di Gioia Tauro, l'avevano visto bene. Avevano visto il giallo, avevano visto il rosso e avevano visto la bomba nascosta sui binari. Quel quadro l'avevano confezionato e spedito verso Roma, ma a Roma quel quadro, quella busta con i fogli, non c'era mai arrivata. Come se un occhio che vede e provvede l'avesse seguita e fermata giusto in tempo. Abbiamo nelle mani cose che faranno tremare l'Italia. Questo, solo questo, avevano voluto dirmi. E sempre in quei giorni era successo il fatto strano della macchina, la Mini Morris gialla, sparita da piazza De Nava e ricomparsa come per magaria in piazza del Popolo, intatta, con dentro il cassettino persino la pistola. Quella busta andava consegnata di persona, faccia a faccia e in mani sicure. E così, senza dirlo a nessuno, erano partiti. Vado a Vibo, ad una riunione, aveva detto Angelo. Ma voi aspettatemi. Oh, stai attento, figlio, con tutte le cose che si sentono in giro. Oh, mamma, ho fatto anche biglietto di ritorno. Il primo treno buono lo prendo e stasera sono a casa. E Franco? Vado con Angelo a Vibo, alla riunione, ma voi aspettatemi per cena. E la riunione l'avevano fatta. A Vibo erano andati, certo. Avevano parlato di Reggio, del sud martoriato, del pericolo fascista e di Nixon. E qualche giorno dopo sarebbe stato a Roma e poi a Napoli. E quella fu la scusa. Andare per quella manifestazione organizzata, ma non in treno, no? In macchina. Con la Mini Morris gialla, partita da Reggio Calabria qualche ora prima. Con Gianni e Annalisa. Il tempo dei saluti. Il tempo di accogliere la richiesta di Luigi di andare in su con loro ed erano partiti. 26 settembre del 70, il cielo limpido. Scivola alla mano di Annalisa, sul braccio di Gianni poggiato lungo il corpo. Non dorme, lei lo sa, lo sente dal respiro. Girato dall'altra parte del letto, pensa, forse ricorda, pensieri brevi, lampi quasi. Si avvicina Annalisa, serra il suo corpo alla schiena di lui. È caldo Gianni. D'un calore tutto interno, una febbre che viene dalla mente. Gianni. Gianni tende una mano dietro, cerca il fianco di lei, lo cerca, lo trova. Gianni, ti ricordi la nostra prima notte a Roma? La tua pelle bruciava. Era da quella sera che non bruciavi così. Arretra adesso la mano di lui, che piega il suo corpo. Spazio per girarsi, lo cerca, si gira, lo trova. Ti amo, Anna. Gianni, può starci un cuore in una noce? Tu non l'hai visto, Gianni. Era così piccolo, aveva le mani, gli occhi. Ne avremo altri. Gianni solleva la testa, risponde con gli occhi, con le mani nei capelli e labbra serrate su labbra serrate. Morris gialla procede verso Roma. La serata è bella, il cielo pieno di stelle. Una serata di settembre. Gennaio del 71. Arriveranno i carri armati a Reggio. Entreranno nei quartieri, libereranno le strade, toglieranno i mobili, gli scaldabagni e nell'aria resteranno solo carte. Ci saranno altri morti, certo, altri ancora. Ma poi la gente tornerà a casa e cercherà di dimenticare. Mancano 200 metri. Gianni accelera, non vedi che Magnecchina non ce la fa. Luigi tiene gli occhi chiusi, forse dorme. Gianni scala in terza. Fabbriche prometteranno a Reggio. Fabbriche e lavoro. Il quinto centro siderurgico con il quarto già in crisi. E una fabbrica dismessa dal Giappone perché produce sostanze cancerogene sarà rimontata pezzo a pezzo in un'oasi naturale, le Saline. La fabbrica non entrerà mai in produzione. Mancano 100 metri. Hai a bucca sicca, dice Angelo. Beve. Vada, dice Franco. A giù camion non ci funzionano i luci d'un rumorchio. Facci segno quando passi. 1974. Sangue, tanto sangue. Morti ad ogni angolo di porta, va a Reggio. Reggio come Beirut. La nuova 'Ndrangheta, quella eversiva, quella legata ai fascisti, prenderà il sopravvento. Non sarà più una mafia di vaccari. Si legherà a politici, uomini importanti. Alzerà la mira su appalti e droga. Mancano 30 metri. Gianni mette la freccia, si sposta sulla corsia di sorpasso. Il camion cammina a centro a carreggiata, una macchina da dietro lampeggia. Angelo si gira, guarda dietro. Gianni passa una mano nei capelli, analizza, alza il finestrino. 1994, parla il pentito Giacomo Lauro. E rivela tutto della strage di Gioia Tauro. Esecutori, mandanti, modalità. Tutto, tutto. 1998. La commissione strage rivela che il noto servizio, una parte deviata dei servizi segreti, ha organizzato per anni incidenti simulati per eliminare persone e testimoni scomodi. Mancano 10 metri, accelera Gianni, non vedi che camion arriva sopra. Mancano 8 metri, non ci faccio, accelera Gianni, spingi sto pedale sino al fondo, non ci faccio. Mancano 7 metri, 6 metri, 5 metri, 4 metri, frena Gianni. Ma come freno, che la macchina da reti? E allora stezza Gianni, stezza, che fossi semi in tempo. In tempo. Non l'hai un chiuso tutto sto tempo. E allora apri sti sputtelli che scendiamo tutti, Gianni, apri. Apri che voglio respirare. Apri che mi manca l'aria, che voglio mangiare, che voglio vivere, che voglio fare l'amore un'altra volta. Apri, Gianni, che mi sento chiuso come un talabara. Apri, Gianni. Oppure, Gianni, dacci cartella rossa. Dici che non sapevo niente. Dici che ne tornavo a casa. Apri, Gianni. Che mi manca l'aria pure ora che passano 30 anni. Chi è sta ombra che mi passa davanti all'occhio e mi impedisce di guardare? Chi è sta pensa che mi riga dincia sino a funno? Chi è sto sputello giallo che mi scaccia cuore e mi impedisce di pensare? Apri Gianni, che sono troppo giovane per morire. Vanno a scoprire ora un colore della morte. La morte è nera, no? La morte è vacante. La morte è come niente. Guarda come gira sta macchina all'aria. Un mondo sano sotto sopra. Pure sta farfalla che mi gira accanto sotto sopra. La musica si allontana, la mera si storce, l'ossa si rompono. Non sento niente. Manco dolore sento. Finiscono i pensieri. Uno accanto all'altro. Luigi, Gianni, Annalise, Franco. Angelo, 100 anni insieme non li fanno. 26 settembre del 70. Il cielo limpio.